Il punto di Stefano Folli. Il dissenso che prende forma nel Movimento 5 Stelle contro la leadership di Beppe Grillo viene spesso giudicato con schemi, diciamo così, tradizionali, per cui da un lato si dice è intollerabile la repressione dei dissidenti, la gogna pubblica a cui sono sottoposti, e dall'altro si grida ma guardate piuttosto a cosa succede nei vecchi partiti, lasciate stare quello di Grillo che poi non è neanche un vero partito. E i due punti di vista sono entrambi insoddisfacenti. E ieri sera a 8:30 ci siamo fatti un'idea più precisa di questo dissenso, ascoltando le ragioni del personaggio del momento, Giovanni Favia. Le sue buone intenzioni sono evidenti, come anche una notevole dose di ingenuità. I richiami costanti alla cosiddetta democrazia liquida, alla democrazia di internet, un rapporto diretto e costante fra i cittadini e il potere che rifiuta qualsiasi mediazione, insomma, questi richiami lasciano a dir poco perplessi. È la strada sicura verso una forma di non democrazia, di totalitarismo elettronico, che ha bisogno per esistere proprio di un leader carismatico, appunto Grillo, il quale quindi interpreta il suo ruolo nell'unico modo in cui è possibile. Può piacere o non piacere tutto questo, ma non deve sorprendere. Chi pretende la democrazia interna in un mondo costruito proprio sull'assenza di regole democratiche non ha capito quasi niente di ciò che sta accadendo.